you're a hoe. Trying to make a sister feel low, you know all of that got to go. Now everybody knows there's exceptions to this rule. I don't be getting mad when we playing, it's cool. But don't you be calling me out my name. I bring crap to those who disrespect me like a dame. That's why I'm talking. One day I was walking down a block, I had my cut off shorts on, right? Cause it was crazy hot. I walked past these dudes when they passed me. One of them felt my booty, he was nasty. I turned around red, somebody was catching the rat. Then the little one said, yeah, me bitch. And laughed. Since he was with his boys, he tried to break fly. I punched him dead in his eyes, said, who you calling a bitch? I guess I fell so deep in love, I grew dependency. I was too blind to see just how it was affecting me. All that I knew is you was all the man I had. And I was scared to let you go, even though you treated me bad. But I don't wanna see my kids see me getting beat down by daddy smacking mommy all around. You say I'm nothing without you, but I'm nothing with you. A man don't really love you if he hits you. Yeah. This is my notice to the tool, I'm not taking it no more. I'm not your personal whore, that's not what I'm here for. Ain't nothing good gon' come to you till you do right by me. Brother, you wait and sit in the bitch. Everybody out there, keep your head straight. Think positive.

E allora, bentornati e bentornate. Vediamo se ci sentite, eccoci qui. Un caldo pomeriggio, quello di oggi, lunedì 28 giugno, stavo dicendo gennaio. Andiamo bene, 28 giugno 2021, 18 e 18, siamo qui un pochino di persone animate da tanta voglia di parlare di tante cose interessanti e anche fare qualche giochino e scherzo. Radio Pirata 38 resuscitata dopo qualche mese di silenzio, un'esperienza partita dal lockdown del marzo 2020, e ne abbiamo dette passate tante, un po' per gioco, un po' per serietà, un po' per dare spazio a pensieri, idee che ci attraversavano nei mesi di chiusura totale, con le difficoltà che ci amo sicuramente non solo noi, ma qui in quartiere la radio è stata piuttosto ascoltata, abbiamo avuto modo anche di interagire direttamente con voi tutte e tutti, abbiamo un numero di telefono che lo ricordiamo anche a chi è affezionato, affezionata, insomma lo sapete, rispondiamo ad SMS e WhatsApp al 351-0913-390, lo ripeto, 351-0913-390 è il contatto telefonico per appunto parlare qui col Sesto Ponte, anche chiedere canzoni, fare delle dediche, dirci quello che pensate. Siamo tornati in voce, dai. Dai, regà, a tra pochino. E allora qui di nuovo 18 e 21 Radio Pirata 38 ci vengono a trovare, come è successo anche la volta scorsa, amichetti e amichette con figli e figlie insieme a loro. Un grande saluto quindi a Fischiotto Alessandrina con Claudio e Rea. Approfitto per salutare anche Leila, Edrin e Jordan, i miei tre piccolini, perché è giusto anche fare questo. E allora aspettiamo che ci facciate sapere se sentite bene, se volete sentire una traccetta musicale o se ci volete parlare di come è andata la vostra giornata, non lo so. 351-0913-390, andiamo ancora con un poco di musica. Thank you. E nel frattempo andiamo a salutare Pietro che ci manda un bel messaggino, un grande ciao a te e grazie di stare qui con noi. Andiamo a vedere altri ci stanno scrivendo nel frattempo. Allora ancora 351-09-13390 per venire qui con noi e farci dire qualcosa in diretta, siamo qui ad attendervi. Thank you. Andiamo a rispondere a Pietro che ci scrive qui al numero WhatsApp 351-09-13390. Sì, Pietro, ti andiamo a confermare che questa è la traccia di cui ci stavi parlando. Hai sicuramente un buon udito, l'udito. Di stalking sta accompagnando il vostro pomeriggio. Abbiamo i vostri contatti WhatsApp, li stiamo utilizzando per sollecitare l'ascolto. Un buon pomeriggio a tutte e tutti quanti dal Sesto Ponte. Dai, è forte il numero. Chi si è messo adesso all'ascolto sicuramente lo conosce, per selezioni musicali, dediche, pensierini, il 351-09-13390 è sempre attivissimo. Dai, forza regà. E dai, allora, di che cosa parleremo oggi? Oggi facciamo un piccolo assunto, un incisino piccolino. Andremo a parlare dell'iniziativa della Tre Giorni, che è appena terminata qualche ora fa, giusto ieri, in quel di Mondeggi, nelle colline al sud di Firenze. Dopodiché andremo avanti per dare degli aggiornamenti rispetto alla Chiesa Zapatista, di cui avevamo avuto già modo di parlare lo scorso lunedì, e andremo a mandare una corrispondenza registrata oggi con un compagno, e poi andremo a parlare di... Parleremo un po' del carcere di Santa Maria Capua Vetere. Voi lo sapete, questa radio è nata nello stesso momento in cui sono scoppiate le rivolte nelle carceri di tutto il paese, e dopo un mese dallo scoppio delle proteste di marzo 2020, ad aprile, a inizio aprile, c'è stato un ingresso vendicativo dello Stato, dopo aver già fatto diverse stragi in diverse carceri. Ha fatto ingresso nel carcere di Santa Maria Capua Vetere con tutta la sua cattiveria, tutta la sua violenza. Sono state innumerevoli le torture raccontate dalle persone detenute, grazie anche ai familiari che hanno fatto da ponte. E oggi lo Stato, insomma, si è mosso in una maniera, come al solito, ambigua, ben lungi dal voler prendersela con chi ha comandato questa tortura di massa. Ci sono state delle misure cautelari impartite a più di 50 secondini, ne parleremo nel corso della serata. E manderemo anche una corrispondenza. Sì, sì. E gli stralcio tutta, vedremo come ci andrà. Vediamo. E allora ancora 351-09-13390, oggi lunedì 28 giugno 2021, 18:36, torniamo in musica DJ. Radio Pirata 38 in diretta dal Sesto Ponte del Laurentino 38. Consigliate l'ascolto ad amici e amiche. Già vediamo crescere. Stiamo crescendo, eh? Dai, avanti, avanti. Dai, dai che ci siamo. Tra l'altro questa formazione con queste due voci sarà davvero rarissima nelle vostre vite. Era circa 10 anni che non avevamo l'occasione di fare radio insieme. Quindi aggiungetevi e contattateci, dai. Dai, regà. E allora salutiamo con un gran caloroso evviva anche noi Radio Pirates, e dai che siamo qui tutte e tutti insieme, Radio Pirata 38, voce nei quartieri 35109133390. Tra poco cominciate a chiederci le tracce che vorreste ascoltare, ma raccontateci anche qualche aneddoto spiritoso, che vi è successo durante la vostra giornata, qualcosa che faccia ridere un pochino. Tutte e tutti siamo qua ad ascoltare, non vediamo l'ora di sbellicarci dalle risate insieme a voi. Thank you. E allora, eccoci qui, 18:46 di lunedì 28 giugno 2021. Andiamo a salutare anche Eddie che ci scrive: grandi, diamo voce a un quartiere ormai morto. Siamo qui ad ascoltare la vostra voce, a tentare di riprodurla come un megafono e farci anche magari qualche ragionamento. Quindi siamo qui, 351-09-13-390, e andiamo a cominciare a entrare nel vivo del primo tema che prima avevamo avuto modo di annunciare. Siamo qui con un compagno che è di ritorno da quel di Mondeggi. Buon pomeriggio a te. Buon pomeriggio a tutti e tutte. Tutte quante. Certamente. Allora, caro mio, sei stato a Mondeggi, sei tornato da qualche ora e andiamo a capire un attimino, oltre a quello che sei andato a fare, cose esilaranti, poi magari ce le potrai raccontare, andiamo però a spiegare che cosa c'è a Mondeggi, perché siete andati a Mondeggi e che cosa c'è stato. Facciamo una domanda aperta, così ti senti libero di parlare in tranquillità di quello che vuoi tu. Vai. Allora, Mondeggi è una grosso appezzamento di terreno di centinaia di ettari con vari casali all'interno, che è stato occupato per opporsi alla svendita di questi beni, perché sono beni comunali, e nel 2016-2015 il comune li stava praticamente regalando ad alcuni amici, molto amici loro. I soliti amici? I soliti amici degli amici. Ok. E niente, un gruppo di persone da Firenze, ma non solo, e dalle campagne all'intorno si sono organizzati, hanno occupato casali e terreni e hanno cominciato a fare un tipo di agricoltura biologica di sussistenza, e fanno orto per loro, vino e olio che riescono pure a vendere, gli viene molto bene. Questa era la cosa che rientrava nella parte ludica. Siamo contenti e contenti che insomma gli venga molto bene anche il vino. Ma raccontaci un po' più o meno quando nasce questa esperienza, da quanto tempo è nata e cosa si è fatto durante questi tre giorni, da venerdì pomeriggio se non erro fino a domenica sera. Perché c'è stata questa tre giorni di iniziative e cosa si è festeggiato? Allora, praticamente Mondeggi aderisce al manifesto del Genuino Clandestino, che praticamente è quell'altro collettivo sparso per tutta Italia che si oppone a un certo modo di fare le leggi sopra gli alimenti, che praticamente rende illegale tutti gli alimenti che uno può fare da solo senza l'industrializzazione, senza certificazioni biologiche o meno. E in questi tre giorni, purtroppo il venerdì l'ho praticamente saltato grazie al traffico di Roma, perché per arrivare a Firenze ci sono volute 4 ore. Cioè, arrivavi a Bologna? Sì, a Venezia o a Helsinki con l'aereo, certo. E quindi niente, venerdì c'è stata una bella festa, bei concertini, perché siamo arrivati a notte praticamente fonda. E posso credere che te dai colpa al traffico? Ci fanno un'incursione in cui ci dicono: non posso credere che tu dai la colpa al traffico per il ritardo. Dici la verità, cosa hai fatto? Non guidavo io, per cui non so io che ho fatto esageratamente tardi. Va bene, a prescindere da questo, perché questi tre giorni, e poi magari andiamo, se vuoi, se ti ricordi, dici quello che ti ricordi, quella che è stata l'esperienza a Mondeggi che hai vissuto tu. Ma perché c'è stata questa tre giorni a Mondeggi? Era il compleanno di Mondeggi, facevano 7 anni, visto che hanno occupato nel 2016, e hanno fatto sta tre giorni dove c'erano varie assemblee, di cui una che cercava di organizzare l'accoglienza degli zapatisti, che pare debbano passare anche a Mondeggi, e un'altra separata femminista, e vari workshop, fra cui falegnameria, saldatura, riparazione elettrodomestici addirittura c'era. Sì. E niente, erano 3 giorni di assemblee e workshop, cibo, Vino? Bella vita. Allora, come funziona? Spiegaci un po', perché uno va là e che fa? C'ha tutti dei servizi, gente che ti imbocca, gente che ti dà da bere, o c'è una sorta di auto-organizzazione, un modo di vivere insieme? Spiegaci un po'. Allora, in genere sì, funziona con l'autogestione, naturalmente. Poi questa era una 3 giorni dove c'erano centinaia e centinaia di persone, per cui insomma c'era un'area campeggio, area camper, e quindi non è che aiutavi a far pranzo, insomma stavi lì e diciamo che qualche servizio c'era, però perché era un evento molto grosso, ci saranno state 500 persone, insomma. Però in genere tutto il resto del tempo ci si conosce, e si partecipa e fanno assemblee delle varie sezioni e poi l'assemblea plenaria di Mondeggi. Ok, perché un po' ragioniamo, provare un po' a spiegare i termini, che vuol dire autogestione, soprattutto in una collettività che si deve occupare di ospitare 500 persone. Noi insomma siamo abituati a provarci in qualche decina, a parte i rari casi in cui facciamo grossi eventi, ormai non se ne parla tra l'altro da un paio d'anni per ovvie ragioni. Però un po' per spiegare come funziona, perché le persone generalmente non è che sono abituate a stare in un posto dove tutti si devono dare da fare, dove c'è un'etica condivisa. Proviamo a spiegarla in maniera semplice. Beh, guarda, in questi giorni c'erano assemblee organizzative di altri eventi, non c'erano assemblee organizzative della 3 giorni, per cui appunto questi giorni si partecipava fino a un certo punto all'organizzazione. Fra di loro la cosa più difficile penso che sia stata trovare qualcuno che non faceva tardi per cucinare il giorno dopo. Però si sono organizzati bene. Questo è il bello della diretta, nei momenti in cui appunto la gente e le compagne e i compagni hanno la necessità di auto-organizzarsi. Ma qua è la cosa, penso che la domanda che stava ponendo anche qui la compagna era magari un pochino più intesa su che cosa vuol dire ritrovarsi tutte e tutte mesi prima nel cominciare solo a pensare a quello che potrebbe essere un'eventuale iniziativa di festa di occupazione dei 3 giorni, e quindi quanto le persone poi realmente da sé si debbano attivare realmente, perché sicuramente le tantissime centinaia di persone che si sono trovate lì hanno trovato dei compagni e delle compagne che si erano auto-organizzati per far sì che chi venisse da fuori potesse fruire, no? Insomma, di tutte le varie necessità, anche magari, no, in termini di cibo, cucina e quant'altro, anche strategiche, diciamo così. Però insomma, questo è il discorso, cioè l'organizzazione viene da sé. Non c'è stato, immagino, nessuno che dalle istituzioni abbia in qualche modo organizzato dei servizi, ma ce no, li siamo fatti, e se li sono fatti insomma le persone che hanno organizzato questa iniziativa, immagino. Assolutamente, hanno organizzato tutto quanto loro, addirittura delle splendide docce, bagni nuovi, quindi tutto perfettamente auto-organizzato. Naturalmente no, non prendono sovvenzioni da nessuna parte loro a Mondeggi. Perfetto, perfetto. Allora, se vuoi aggiungere altro, siamo qui ad ascoltarti, altrimenti quello che possiamo fare è rimandare tutte e tutti, magari chissà al prossimo anno se ancora saranno lì nella Sperare, io lo spero vivamente, magari alla prossima festa di compleanno, che in teoria dovrebbe essere l'8º se non sbaglio, e quindi niente, dopo questa piacevole chiacchierata torniamo in musica. E dai, riga, Radio Pirata 38, scriveteci 351-09-13390, 18 minuti e 56, un pochino di musica e torniamo in voce tra poco.

Va bene, allora dopo magari chissà, la manderemo pure. Sarà una sorpresa per i prossimi minuti. Dai così. Dai. Prova, prova. E quale bellissimo messaggio ci giunge da quel di Amsterdam. Una carissima compagnuccia nostra, dai errata, tutti e tutte con te. Bacetti. Yeah. Eccoci qui, allora, sulle note di Rex the Dog, qual è il titolo? Do you feel what I feel? Andiamo a raccontare una notizia, secondo me, che è strategica forse per la puntata di oggi. Il titolo della canzone si addice a questa notizia che hai rintracciato. Vuoi leggere tu il titolo? No, no. Dai, no, leggilo tu, che è interessantissimo, io poi leggo tutto il resto. Dai. Uomo trova scarafaggio ferito per strada e lo porta dal veterinario. Io non voglio pensare al veterinario. È una notizia risalente al 21 giugno. È un veterinario thailandese, ha raccontato la storia di un paziente che è stato un pochino insolito, appunto perché a seguito di aver trovato uno scarafaggio schiacciato nelle strade di quella città in Thailandia, ha deciso di portarlo direttamente dal veterinario, che è proprio un ospedale, se non mi sbaglio. Che bello, comunque è di un'umanità quest'uomo. Si chiama... no, diciamolo il nome di... di quest'uomo? Sì. Allora, aspetta, lo troviamo subito. Questo è l'ospedale. No, qua c'è il nome del veterinario che, dai, diciamo, che riporta questa... veterinario. Allora, il grandissimo veterinario Kratum Baen in Thailandia. Anzi, no, Kratum Baen in Thailandia è la città. Invece il veterinario si chiama Thanulimpapattanawanich. La pronuncia sarà sicuramente quella giusta. E niente, è stato un caso proprio di emergenza, un codice rosso a questo punto. Appunto, è stato calpestato questo scarafaggio che giaceva lì sul ciglio della strada. E in quel momento questo uomo gentilissimo è passato lì vedendolo e lo ha portato all'ospedale veterinario. Purtroppo la possibilità di sopravvivenza ora sono 50-50. Quindi vedremo un attimino quello che succederà nella storia di questo scarafaggio, che è stato solamente potuto mettere in una camera ossigenata per tentare di salvarlo. E la prognosi è ancora riservata, sicuramente. Daremo aggiornamenti lunedì prossimo, sperando di rintracciarli. Ma come al solito, sapete, la stampa è fatta così, si ferma al sensazionalismo, a questi aspetti, giusto per vendere. Poi non ci aggiorna nemmeno. No, poi non gliene frega niente di darci notizie rispetto a questo animale sopravvissuto. Speriamo comunque di rintracciarle sul web, perché abbiamo un corrispondente thailandese che magari sulla stampa locale ci può riuscire a trovare qualche informazione in più. Perfetto, allora, dopo questa esilarante notizia vi invitiamo a condividere anche le non vostre esilaranti notizie. Non ho capito cosa notizie. C'è di esilarante in tutto questo, ma va benissimo. Ah, perché dai, insomma, anche uno scarafaggetto è una cosa carina. C'è gente contenta di ascoltarci. Ma è bello, uno scambio di cuori. Anche se diciamo queste cose. Sì, sì, nonostante tutto. Ebbene, adesso vi daremo nota di altre notizie stravaganti, diciamo. Sì, ma scrivetecene anche voi qualcuna, magari la possiamo commentare insieme e raccontare per voi. 351-09-13390. Siamo qui. Anche perché i media nostrani hanno nella home soltanto notizie sul calcio, quindi tutto il resto a noi va piuttosto bene, quindi inviateci notizie. Vi aspettiamo. We'll be right back. E ricordiamo che non abbiamo solamente il WhatsApp sul quale ci potete raggiungere. Chi avesse Twitter, Radio Pirata 38, e invece per chi avesse Facebook, Laurentino Borgata, scriveteci anche lì e siamo qui a recepire le vostre sciocchezze o le cose vostre serie o le vostre dediche, richieste, saluti, baci, abbracci. Future. It's our future. It's our future. Yeah! Abbiamo finalmente delle news di prima mano, questa volta dalla Bassa Sabina. Ci scrive un corrispondente: da una settimana dal rubinetto insieme all'acqua esce terra. Due giorni fa hanno intruppato un lupo e siccome non stiamo in Thailandia, nessuno si è preoccupato di sapere come sta. Dai, ma il sermone? Ci chiedono il sermone. Il sermone. Manca l'appuntamento del sermone, ma c'è da dire qualcosa di altrettanto importante. Apriamo la rubrica. Tenete bene aperte le orecchie, che ora parte. La rubrica Attendendo il Pippone è tutta una fase così un po' più soft che vivrete insieme a noi. Si chiama Fase Fresh. Questa volta abbiamo una notizia strabiliante. Io leggo il titolo: allora, Romina Power torna a stuzzicare Albano Carrisi. Spero di non finire la mia vita da sola. Lasciamo a voi l'immaginazione per il resto della notizia, altrettanto interessante. E qui abbiamo un esclusivo. Ma il magnifico Massimo Giletti parla della sua vita sotto scorta. Dice: non ho paura, mi addolora la mancanza di solidarietà. Questo è un esclusivo che esce sul... che sarà un settimanale oggi? Un settimanale che seguiamo proprio assiduamente. Compriamo ogni numero ovviamente oggi. Massimo Giletti, chi te se incula? Avanti, dai, maestro. Massimo! We'll be right back. E allora, mentre continuiamo a cercare notizie su gossip e pettegolezzi, vi invitiamo anche a mandarci i vostri, eh? Oh, siamo qui ad ascoltarvi, proprio stiamo fremendo, vogliamo ricevere i vostri pettegolezzi, i vostri gossip. 351-09-13390, ma noi continuiamo, andiamo avanti col nostro pettegolezzo. Estivi e soprattutto che appuntamenti avete, con chi uscirete? Sappiamo che soprattutto uscirete con persone di cui nessuno deve sapere niente. Potete dirlo a Radio Pirata 38. Sicuramente non sveleremo i vostri segreti. Avanti. Vi aspettiamo. Ci fa notare qualche ascoltatore che le tracce che stiamo ascoltando sono le stesse dell'anno scorso. Sarà vero? Ma è uscito intanto il nuovo LP di Pupo. Vi consigliamo l'ascolto. Sicuramente su tutte le piattaforme gratuite troverete la vostra canzone dell'estate, scritta da Pupo. Ah, ma qual è la traccia dell'estate? Sono già usciti i tormentoni estivi? Beh, dai, c'è quella del trio Fedez e compagnia bella, che secondo me è una bella canzone dove c'è un'unica cantante intonata e gli altri due che farneticano a cazzo di cane. Ma io non l'ho ancora sentita, non so se esserne felice o meno. Adesso ce la fa ascoltare il maestro. Chi vivrà vedrà, dai maestro. E allora, dato che ci sta dicendo che siamo un pochino moscetti e moscette, adesso sale una traccia che è un attimino più movimentata. Silures, The Silures. Mo la sentite. Siamo qui pronti e pronte ad attendere i vostri gossip e pettegolezzi al 351 09 13 390. Però andiamo con uno una bellissima notizia. La introduco io e poi la commenti tu. Cecilia Rodriguez e Ignacio Moser, bellissimi all'evento sul lago di Como, in coppia con Damante e la fidanzata. E ci sono anche le foto, vi invitiamo ad andarle a vedere su gossip.it, sono veramente magnifiche. Raga, io non so assolutamente di chi si parla, non so nessuna delle quattro persone, se sono quattro, perché Damante chi è? Visari? Bene. Non lo so, Damante, io pensavo che era l'amante, non è l'amante? Mi fa pensare questa notizia. Cioè, ma chi è Cecilia Rodriguez? Cioè, nel senso... Parliamo di Maria De Filippi. Cerchiamo una notizia su Maria De Filippi. Vediamo bene, se qualcuno bene. Ci sentirà e ce la commenterà, perché magari tante ascoltatrici e ascoltatori che sentono ste robe e ci possono informare. Passiamo però alla prossima notizia. Vai, la introduciamo. Vai, vai, vai. 42 anni, un bikini, una donna. L'articolo dice strepitosa Elisabetta Canalis. Wow. Non dormirò stanotte davvero con tutte queste notizie interessanti. Vi prego, scriveteci al 351-0913-390. Abbiamo parlato di Scarafaggi e Canalis. Restate all'ascolto. Fra poco, noi stiamo cercando di alleviare le pene dell'inferno, ma fra poco torneremo sul serio. Avrete... Però ho una chicca sulla Canalis, ve la posso raccontare? No, ma è cioè una cosa che mi è successa personalmente, non è una fandonia. Dici. Niente, l'estate scorsa io sono nato in Sardegna, quindi ho i parenti, sono andato lì ed ero con il mio bassotto, dal nome Otto, Otto il bassotto, che aveva tipo 3 mesi, roba del genere. E niente, incontro una coppia con 2 bambini che avevano anche loro un bassotto. Ci mettiamo a parlare del più e del meno riguardo ai bassotti. E parlando dei bassotti, a un certo punto ci salutiamo e ce ne andiamo. Non mi ero reso conto che era proprio lei, Elisabetta Canalis. Scoop. Mazza, che non ho capito perché non è su gossipitalia.it. Perché la stavano per pubblicare su Oggi e su Gente. Su Cronaca. Mia nonna lo comprava sempre Gente. Tuo nonno lo comprava Gente? No, no, no, per fortuna. Ma ci chiedono del perché non parliamo del processo contro la tutela legale di Britney Spears. Ah, Britney Spears ha fatto causa al padre perché noi non siamo per informati. No, no, no, dei tribunali, di quella giustizia okay. borghese non ci interessiamo, ma ti chiederemo di seguire il processo e poi farci un resoconto. Ecco, siamo disposti sicuramente a darti voce. Grazie. Forza. Pietro, però, per averci Grazie. Segnalato questo. Il processo si terrà tra l'altro a Potenza. A Potenza, sì, dall'America sì. a Potenza con sì. furore. Dall'America con furore. Va bene, dai DJ, faccia sentire in traccione che spigne proprio. Va che è arrivata l'ora, sono le 7:30 passate, aperitivo, e quindi possiamo pure andare un pochino sullo spinto. E allora, mentre scorrono le note di Bells di Vitalik, vi diciamo preparatevi perché sta per arrivare il tormentone dell'estate con la magnifica e famosissima Orietta Berti. E allora, eccoci qui di nuovo in voce, 19:41 minuti di questo lunedì 28 giugno 2021. Situazione un pochino umidina oggi qui in quel di Roma, dal Sesto Ponte Laurentino 38. Allora, adesso io direi così: prima noi abbiamo detto che avremmo mandato il tormentone dell'estate, non sto un pochino scherzando, la facciamo una cosa, la rendiamo un pochino più dinamica. Se lo volete ascoltare sto tormentone, scriveteci al 351-09-13390 e noi saremo ben lieti e liete di potervelo far ascoltare, altrimenti entro due minuti non vi pensiamo più e andiamo avanti con il nostro DJ, che qua ci allieta già da lunedì scorso, che ringraziamo veramente tanto, e quindi aspettiamo la vostra voce. Volete sentire o meno questo tormentone? 351-09-13390, vediamo che ci dite. Allora, ritorniamo in voce. Come vi abbiamo detto, vi abbiamo chiesto se volevate o meno sentire e ascoltare questo tormentone. Arriva Errata che ci dice che no, non lo vuole sentire. Allora noi rispettiamo la voglia di chi ci sta ascoltando e non ve lo facciamo sentire, tanto vi andranno a far sanguinare le orecchie per tutta quest'estate in tutte le varie radio. E quindi grazie che tu dall'Olanda ci stai sentendo e che ascolti le nostre showcase quotidiane, ti vogliamo un sacco di bene. E allora andiamo a introdurre, dateci altri 30 secondi e come promesso andremo a parlare degli aggiornamenti riguardo la gira zapatista, dopodiché manderemo anche una intervista e un corrispondenza che abbiamo registrato proprio quest'oggi. Allora, eccoci qui, tornati in voce. Anche quest'oggi ci è venuto a trovare il nostro compagno con cui già lo scorso lunedì abbiamo affrontato e cominciato a parlare del tema della Chiesa Zapatista. E quindi, come promesso, ritorniamo qui anche quest'oggi a parlare. Ben trovato, caro mio, come stai quest'oggi? Grazie e di nuovo benvenuti a tutti e a tutte. La settimana scorsa ci eravamo lasciati che gli zapatisti il giorno dopo dovevano sbarcare. Corretto. E alla fine martedì sono sbarcati con una grande cerimonia. Sono sbarcati su una spiaggia vicino a Baiona, a Vigo, a Valencia. E è stata una cerimonia molto densa di significati, dove i compagni e le compagne della Galizia hanno svolto il compito che gli era stato affidato agli zapatisti in maniera, penso, egregia. Però credo anche che sia buono che sentiamo le parole di chi c'è stato lì, faccelo raccontare, diciamo, in diretta, e poi magari torniamo a commentare insieme quello che... Giusto, giusto. Come promesso, abbiamo registrato un'intervista oggi pomeriggio che a questo punto vi andiamo a proporre. Buon ascolto. E buon pomeriggio a tutti e tutti qui da Radio Pirata 38. Oggi lunedì 28 giugno 2011 siamo con un compagno, come promesso, che nei giorni scorsi è andato ad accogliere le compagne e compagni zapatisti che sono sbarcati sul territorio europeo, e ce lo facciamo raccontare direttamente dalla voce di chi è stato lì e ha avuto la fortuna e il piacere di accogliere queste compagne e compagni. Buon pomeriggio a te, come stai? Bene, bene, buon pomeriggio a tutti e a tutti. Allora, io volevo sapere un pochino come quella che è stata la tua esperienza, anche un pochino di emozione alla fine, e quindi volevo sapere un pochino da te che cosa è stato questo sbarco, tu come l'hai visto, come è stato, insomma, come sono state accolte queste persone che ci hanno raggiunto, insomma, facci un pochino tu il punto. Ok, tanta roba. Allora... Sì. Dunque, innanzitutto l'emozione è stata incredibile, meravigliosa. Facciamo un passo indietro. È un viaggio storico, il Viaggio per la Vita 2021, un viaggio storico che è iniziato in maniera pratica e simbolica con l'attraversamento dell'oceano su un veliero. L'invasione al contrario da parte dei zapatisti e dei zapatisti nei confronti della vecchia Europa e l'incontro con la altra Europa, l'Europa dal basso. Un viaggio storico, un viaggio importantissimo, a maggior ragione, insomma, pensando anche ai tempi, no? A questo contesto generale, insomma, dell'ultimo anno e mezzo, in cui anche gli spostamenti, insomma, conosciamo, insomma, bene la situazione. Allora hanno avuto questo coraggio di sfidare il mare. Persone che probabilmente il mare non avevano nemmeno mai visto, hanno sfidato l'oceano, accompagnate da una troupe, da una tripolazione, da un equipaggio altrettanto degno e coraggioso. Veramente abbiamo conosciuto, è stata anche una bella esperienza conoscere l'equipaggio della Starlatte, la nave che poi è stata ribattezzata la montagna che ha solcato e che ha attraversato il mare. Un viaggio che è iniziato, lo sbarco è avvenuto martedì scorso, quindi 6 giorni fa, e il viaggio è durato 50 giorni in mare, 50 giorni di questa travessia, di questa traversata attraverso l'Oceano Atlantico, che ha portato la montagna, la prima delegazione zapatista, l'esquadron 421, appunto, composta da 4 donne, 2 uomini e una autroa, Maria José, appunto ha attraversato il mare, ha attraversato l'oceano per arrivare sulle coste della Galizia, sulle coste di Vigo, in Galizia. E questo per noi è stata un'attesa soprattutto incredibile. La data dell'arrivo è stata incerta fino alla fine. E dobbiamo aggiungere anche che la Galizia non ha proprio lo stesso clima nostro, per cui è il posto più a ovest d'Europa, sull'Oceano Atlantico. Parte della Galizia viene anche chiamata Finisterre, l'ultima parte della terra, del mondo allora conosciuto, prima che si conoscesse il resto. Quindi è arrivata martedì scorso, era già sulle coste della Galizia pochi giorni prima. Noi infatti abbiamo avuto una chiamata, e diciamo con tutto il gruppone sia di delegati internazionali, comunque di delegazioni internazionali presenti, sia delle compagne e dei compagni della Galizia. Siamo andati a salutare già domenica la barca da lontano, con un clima veramente pessimo, con un clima di tempesta, delle temperature bassissime, il vento, il mare alto, per quello è stato anche un po' difficile l'ultima parte, diciamo, dell'arrivo in Galizia. Attraverso appunto l'organizzazione veramente generosa delle compagne e dei compagni di Galizia e anche appunto l'apporto delle delegazioni internazionali, martedì scorso si è organizzato questo evento, questo grande evento che è stato lo sbarco della montagna, della Starlatte. È stato un evento simbolico, pieno di contenuti della cosmovisione zapatista, molto molto importante. È avvenuto di pomeriggio, c'è stata una prima cerimonia, dopo il momento dello sbarco dove eravamo presenti, in cui è sbarcata la delegazione, la compagnerò Maria José, è stata la prima a mettere piede in terraferma e a ribattezzare in lingua originale l'Europa come terra ribelle, terra che non si sottomette, evidentemente rivolgendosi anche a quell'abbraccio che loro vogliono dare all'Europa dal basso, l'Europa che resiste, non l'Europa dall'alto. È stato un momento bellissimo che è continuato poi appunto con una marcia in questo modo di Vigo. Pochi giorni prima l'avevamo visti a Baiona, che era un porto a 30 km. Qui c'era una cosa molto interessante anche a livello simbolico. Baiona è stato il porto di approdo, di ritorno della Pinta, una delle tre caravelle protagoniste dell'invasione coloniale di Cristoforo Colombo, sì. Nel 1492, e sembra che la storia racconti anche che sia stato il primo indigeno venuto dal nuovo continente, o comunque da Via Yara, dall'America Latina, sia arrivato e abbia messo piede in Europa proprio a Baiona, in proprio questo porto. Proprio lì, sì, quindi anche forse non so se casualmente o volutamente c'è stato questo passaggio qui. Dopodiché, appunto, il martedì c'è stata una cerimonia e la delegazione zapatista era accompagnata da noi abbiamo chiamato los specos, degli specchi, ovvero erano persone sia della Galizia che persone delle varie delegazioni internazionali che accompagnavano, ognuna con la propria peculiarità, ognuna con la propria storia, si sono incontrati, si sono raccontati e c'è stato già questo primo momento d'incontro. Molto bello, veramente molto bello. Da lì poi appunto l'incontro è proseguito, era stato allestito un palco, ci sono state le presentazioni della delegazione, Maria José ha ribattezzato nuovamente l'Europa come primo intervento davanti a tutti e a tutti, e è stato bellissimo. Dopodiché c'è stato un momento insomma musicale, culturale, poesie, letture, soprattutto prevalentemente organizzate dalla comunità galiziana, appunto, che era protagonista di questa organizzazione. E molto bello, anche perché abbiamo conosciuto anche delle cose molto interessanti anche noi, insomma, su questa terra che conosciamo poco. Tra parentesi, abbiamo scoperto che anche il luogo dove è stato inventato il biliardino, pensate, in Galizia, da Alejandro Finisterre, un personaggio mitologico, e vi invito ad andare. Ci andremo a documentare a riguardo. È una storia molto molto bella. E si è proseguito così, e niente, e noi, le delegazioni internazionali, hanno letto poi un documento, delle parole, insomma, di benvenuta che annunciavano questo primo passo verso questo grande viaggio per la vita 2021. Perfetto. E allora, decidiamo di mandare due blocchi di questa intervista per non farla troppo lunga, quindi andiamo con una parte musicale e poi ritorniamo e vi manderemo la seconda parte dell'intervista. Buon ascolto. Mo arriva la musica, no, è un attimino stiamo risolvendo, andiamo qua. Allora, comunque, sempre ricordiamo Radio Pirata 38 351 09 13 390, scriveteci, raccontateci quello che volete, noi nel frattempo tenteremo di continuare ad allietarvi con un pochino di musica che magari manderemo dal tablet qualora non ci volesse assistere. No, ci sta assistendo, sembra. Grazie DJ. E allora eccoci qui di nuovo, Radio Pirata 38, sono le 20.04, per chi si fosse sintonizzato o sintonizzata ora vi invitiamo a scriverci al 351-09-13390 e continuiamo con l'intervista che abbiamo cominciato a far ascoltare prima con la seconda parte. E allora procediamo e buon ascolto. Ci sentiamo dopo. Senti, vogliamo spiegare un pochino qual è anche il senso, no? Cioè, perché vengono qui? Che cosa vengono a fare nello specifico? Qual è l'idea o l'obiettivo anche magari che hanno in mente che vorrebbero raggiungere? Beh, allora, tante cose, tanti significati, tanti pensieri su questo verranno svelati sempre in questo cammino che ci sta portando a questo viaggio. Sono usciti tantissimi comunicati raccontando l'idea, la voglia e le premesse che sono dietro questo viaggio. Sicuramente il più importante è contenuto nella Dichiarazione per la Vita, fatta il 1° gennaio di quest'anno in questo documento congiunto scritto dalle compagne e dai compagni zapatisti e dalla e anche appunto dalle firmato e coadiuvato da, da tantissime realtà internazionali, collettivi, associazioni, comitati e via dicendo, nel quale appunto si annuncia questo viaggio, fondamentalmente un viaggio che rappresenta un abbraccio, l'abbraccio fra la realtà zapatista e tutte quelle realtà del mondo dal basso che loro non hanno magari in questi anni avuto la possibilità di conoscere, ma che sanno che stavano dietro a tutto quel motore della solidarietà, insomma, che gli è arrivata in questi 20, più di 26 anni di rivolta, di rivoluzione e di costruzione di un mondo altro. Quindi questo sicuramente è uno delle, questo sicuramente è uno dei significati principali appunto della, dell'abbraccio, del, nel venire qua, nel conoscersi, nel raccontare la storia zapatista, ma anche nell'ascoltare le storie della gente dal basso appunto che si organizza, che resiste quotidianamente in tutti i paesi d'Europa. Molto probabilmente saranno interessati 30 paesi di questa zona, quindi insomma una cosa molto grande, e nella quale appunto lo ribadiscono il fatto di voler conoscere tutte quelle cose che ci accomunano, quel senso di ribellione che ci accomuna e tralasciare per una volta quelle cose che ci separano, tutto quel mondo, le differenze che sicuramente esistono, ci separano, ma ne abbiamo, ma di cose in comune ne abbiamo da condividere. E questo è un po' il senso di questo grande viaggio, di questa, di questo viaggio di conoscenza che sarà lungo, sarà, sarà protagonista una delegazione molto numerosa e sarà appunto questo, questo lungo viaggio, permettiamo che sarà molto lungo questo viaggio. Il primo passaggio è stato fatto in maniera, nella maniera simbolica più bella e meravigliosa che potesse esserci. Nel discorso finale, durante appunto l'atto, è stato, sono state molto belle secondo me anche le parole del capitano, il capitano Ludwig, questo capitano tedesco che è il capitano della barca, appunto, che ha detto: noi abbiamo accompagnato la delegazione zapatista attraverso questo viaggio lungo e difficile, adesso spetta a voi accompagnarli, accompagnarle nel, in, in questo lungo viaggio che sta per iniziare, sarà veramente fantastico. Bellissimo, bellissimo, però è giusto la, la una, no, dice finisce un viaggio in mare ma ne comincia un altro, e quindi tutte e tutti noi insomma penso che saremo sicuramente lieti di poterli accogliere nei differenti territori che loro riusciranno ad attraversare nelle settimane. Quindi magari possiamo fare una cosa, possiamo dire a chi ci ascolta dove si possono reperire informazioni rispetto a cosa avverrà, come proseguirà, come poter dare solidarietà o comunque come rimanere insomma attenti rispetto a, a tutto, a tutta questa gira zapatista. Certamente. Allora, beh, promettiamo che ci sarà, insomma, già preannunciano l'ulteriore sbarco di delegazioni numerosissime, già insomma dalle prossime settimane, nell'ultimo comunicato si parla di Parigi, e quindi diciamo che ci saranno delle sorprese incredibili da vedere, e sicuramente, o molto probabilmente, sicuramente insomma ci sarà anche appunto questo abbraccio di conoscenza e questo viaggio anche in Italia. Ormai sono mesi da quando è iniziata questa avventura, che comunque sia a Roma che in tutte le in tutta la penisola italiana, come in tutta Europa, in tutta la penisola italiana e anche nelle isole, anche in Sicilia e Sardegna, si stanno organizzando assemblee, comitati, assemblee aperte appunto per organizzare proposte per il viaggio, proposte di incontri, ma anche un'organizzazione comune. A Roma, in Italia è nata un'assemblea molto, molto, molto ampia che si chiama La Paz, Libera Assemblea, pensando e praticando autonomia zapatista in Italia, e dentro la quale fanno parte tantissime realtà di macro aree, diciamo, di tutto il paese, fra cui appunto anche la città di Roma, tant'è vero che l'assemblea romana si è decisa anche di autodenominarsi La Paz Roma, quindi insomma l'assemblea romana in tal senso. A Roma esiste anche, oltre a questa assemblea mista, un'assemblea di genere, e quindi ci si sta organizzando in questo modo per elaborare delle proposte, elaborare proposte anche di autofinanziamento delle spese che ci saranno, proposte di comunicazione, proposte insomma per far sì che l'accoglienza sia all'altezza di questa grandissima impresa. In questo momento abbiamo allestito, o comunque stiamo utilizzando, delle pagine Facebook e Instagram, che se appunto si chiamano la Paz Italia e anche la Paz Roma, nelle quali appunto comunque quotidianamente vengono dati degli aggiornamenti sia sul viaggio in generale, sia sulle proposte, sia su come si sta svolgendo il viaggio, sia ad esempio per quanto riguarda la città di Roma, su tutte le iniziative. Ed è bellissimo perché in realtà stanno fioccando, praticamente ogni settimana c'è un'iniziativa per finanziare la carovana, per parlare di questo, o comunque anche in altre iniziative viene sempre dato uno spazio a questa questione, e appunto vengono segnalate in queste pagine Facebook. E quindi per il momento stiamo utilizzando questi canali, e diciamo insomma che il lavoro di comunicazione sta riuscendo abbastanza bene, per cui ci sono tanti, tanti aggiornamenti. Magnifico, magnifico. Allora sicuramente ci manterremo aggiornati. Io ti ringrazio veramente tanto per il tuo contributo. Se vuoi aggiungere qualcosa, siamo qui ad ascoltarti. Ma io aggiungo solo una cosa: si stanno producendo tantissimi materiali, dai materiali, dai libri appunto per conoscere la realtà zapatista, per iniziare ad approcciare insomma a questo tema, no? Per essere anche preparati insomma all'accoglienza migliore, a tantissimi altri materiali, dal calendario abbiamo anche grazie alla collaborazione di tanti artisti, creato dei tarocchi zapatisti, una versione dei tarocchi rivisitata zapatista. E si stanno insomma producendo gioielli, si sta producendo un po' di tutto anche per finanziare la carovana. E a livello nazionale è partito, e lo troverete sulla pagina di La Paz Italia, anche un crowdfunding, sì. Nella quale appunto chiunque può contribuire alle spese appunto per l'accoglienza in Italia, e anche le spese generali che si dovranno sostenere a livello europeo, facendo una piccola donazione. In cambio, e troverete sulla pagina del crowdfunding, ci sono anche dei premi, insomma, dei premi delle artistici e non, per chi appunto decide anche con un piccolo sforzo di solidarietà di partecipare a questa impresa. Perfetto, allora invitiamo tutti e tutti ad andare sulla pagina e dare ciascuna e ciascuno il proprio contributo, in modo tale che così renderemo ancora più ampia e semplice, magari forse da un certo punto di vista, il finanziamento della Chiesa Zapatista. Io ti ringrazio veramente tanto, è stato tutto molto interessante, e comunque spero di poterci risentire nelle prossime settimane per eventuali aggiornamenti e per continuare a parlare di questo tema. Ti ringrazio molto, tanto caro. Molto volentieri, e grazie mille dello spazio, grazie a tutti e a tutti, e viva la Radio Pirata. Viva lo zapatismo, buona serata. Allora, rieccoci qui, torniamo in voce dopo questa interessantissima intervista e contributo che abbiamo ricevuto da parte del compagno riguardo al tema dell'accoglienza della Chiesa Zapatista. Al racconto che ci ha lasciato, che dobbiamo ringraziare innanzitutto per l'ottimismo della volontà che esprime il compagno nelle sue parole. È vero che questo è un viaggio storico che innanzitutto proprio per, nella modalità propria degli zapatisti e delle zapatiste di camminare domandando, il loro viaggio inevitabilmente facendo delle ponendo delle domande mette in moto le realtà e i popoli che questo viaggio attraverserà. Quindi all'ottimismo della volontà adesso dobbiamo essere organizzati e capire, e col pessimismo della ragione capire cosa dobbiamo andare a fare. Io penso che al di là della, del racconto, soprattutto nella seconda parte, adesso il compito è dell'Europa in basso a sinistra di saper organizzare il viaggio delle delegazioni che stanno arrivando. Questo primo squadrone, quello marittimo, ha svolto il suo compito, come ci ha ben narrato. Dobbiamo ringraziare le compagne e i compagni della Galizia che hanno reso possibile questo sbarco, al contrario dell'invasione consensuale. Ci sarebbe stato bene un bello striscione da terra in cui avremmo scritto "ci arrendiamo pacificamente", senza dire nient'altro. Dice, ci arrendiamo, va bene, ci arrendiamo, alziamo le mani, sarebbe bastato quello. Adesso noi e il tempo stringe, perché tra poco è uscito 2 giorni fa l'ultimo comunicato da parte del subcomandante Galeano, quindi pare che si paracaduteranno in un D-Day sopra Parigi, in Francia, quindi stanno arrivando. Abbiamo il compito di definire le agende e gli appuntamenti importanti che riteniamo come comunità larghe, che importanti affinché gli zapatisti appunto conoscano le persone reali, perché appunto e le lotte reali, perché anche, sempre nell'ultimo comunicato il SUP ci ricorda che non tanto gli eventi mediatici, che comunque inevitabilmente ci saranno, ma il racconto delle storie vere delle persone che animano le lotte all'interno delle comunità. Quindi c'è delle realtà, nel nostro caso della penisola italiana, ma in più in generale dell'Europa largamente intesa. E quindi adesso è quello. Io penso abbiamo già degli appuntamenti in quest'estate, dal ventennale di Genova, arrivando alle lotte in Valsusa che si sono rianimate dopo l'autoporto a San Didero. E quindi gli appuntamenti ci sono, dobbiamo capire anche come connettere, e la grande sfida del pessimismo della ragione sta qui, capire dove non coltivare il proprio orticello, ma permettimi di saper vedere l'interesse generale dell'unità delle lotte. Volevo porre l'accento appunto sulla seconda parte dell'intervista, che è la parte che mi è piaciuta anche un attimino come simbolo e richiamo e rimando, no? Nel senso della parte del comandante della montagna così denominata, che ha attraversato l'oceano e che li ha portati qui, dice: ok, noi con tante peripezie siamo giunti fino alle coste atlantiche, quindi qui finisce il mio viaggio. Ora inizia un altro discorso, un altro percorso, un altro viaggio, e infatti, sarete insieme ad affrontarlo. E infatti l'altro passaggio importante secondo me è proprio questo, cioè le parole del capitano della montagna, ex Stallratte, che era una nave che traghettava motociclisti da Panama in Colombia, sostanzialmente era un veliero destinato a fare questo, l'ultimo compito a cui era destinato era questo, in cui appunto, riprendendo pure le parole degli zapatisti stessi, il compito, noi dobbiamo assumerci il compito, così come quando siamo andati giù, in cui loro si sono occupati della nostra tutela a 360 gradi, adesso compresa anche il farci vivere le lotte che loro praticano, farci sentire, farci entrare nelle loro comunità, quindi entrare in contatto emotivamente, spiritualmente con loro, quindi a 360 gradi, quindi non parliamo solo della tutela legale, della tutela della salute, i trasporti e via dicendo, che è importantissimo ovviamente, ma anche avere noi la capacità di far entrare loro nelle nostre comunità, fargli conoscere veramente chi siamo e farci porre poi le domande appunto del viaggio, del camminare domandando. Giusto, giusto. Allora, rimandiamo un attimino ai siti su cui possiamo andare a reperire informazioni sulla gira zapatista. Sicuramente noi abbiamo sicuramente il gruppo Facebook dei La Paz, che è l'assemblea nazionale italiana che si sta occupando di coordinare tutte le varie realtà sul territorio italiano. Nello specifico a Roma abbiamo la pagina Facebook di La Paz Roma, che organizza le realtà romane e del litorale, e va bene così. Allora adesso facciamo una cosa, andiamo un attimino di nuovo in musica. Se volete insomma mantenere attenta l'attenzione rispetto a questo tema, sicuramente anche nella città di Roma nelle prossime settimane ci saranno delle iniziative in diversi spazi in cui potrete anche reperire materiale vario, quindi insomma sì, sicuramente da qui a 15 giorni ci sarà un'accelerazione degli eventi, visto che ormai siamo entrati nel vivo della gira zapatista, quindi già giovedì ci sarà la prima assemblea nazionale, quindi da lì in poi sarà tutta salita. Perfetto, allora ritorniamo un attimino in musica. Sempre Radio Pirata 38 351 0913 390 per mandarci messaggi in diretta via WhatsApp. Siamo qui ad aspettarvi e buon ascolto. Bum, bum, bum. Radio Pirata 38 in diretta dal Sesto Ponte del Laurentino 38. Abbiamo ripreso con queste edizioni speciali, date le presenze nello squat. 3510913503390. Ridiciamolo dall'inizio. 3510913390 è il numero di telefono per entrare in contatto con la redazione. Sì, stiamo con i volumi un po' sballati, però ci piace essere sballati. Sì, sì, sballate, sì, però, no? Sì, sì, no, non siamo per la lucidità estrema, l'abbiamo dimostrato durante queste due orette e mezza di diretta. Siamo passati un po' da, come dire, argomenti soft a buona musica, almeno per i nostri gusti, a saluti a persone care. Poi abbiamo trattato argomenti argomenti a noi cari, oltre i gossip. E allora arriviamo un po' a qualcosa che segue un po' il filo delle dirette di Radio Pirata 38. Chi ascolta dall'esordio almeno del 2020 questa radio ci ha ascoltati sui balconi con l'amplificazione sul tetto del Sesto Ponte che puntava alle finestre. Buona musica, ma anche un po' di notizie sparse. Abbiamo iniziato le dirette quando è scoppiata una rivolta nel carcere di Re Bibbia in contemporanea con Regina Celi. Maestro, puoi abbassare un pochino la musica perché... Ok, ritorna. Perfetto. Ritorna. Era marzo, il contagio cresceva qui fuori e la paura strisciava anche nelle nostre teste, nei nostri cuori. Non sapevamo chi potevamo incontrare, come lo potevamo incontrare, che cavolo era sto virus, come funzionava a proteggersi, come poteva funzionare anche il contagio alle nostre persone care. E lo Stato ha deciso di lasciare tale e quale la situazione nelle carceri, con persone ammassate nelle celle di questo paese, chiudendo i colloqui, di fatto isolando le persone detenute con un virus che comunque è entrato pesantemente dentro le celle, ha fatto centinaia di contagi in situazioni ovviamente di tutela della salute che fanno cacare anche senza una pandemia. Lo sanno un po' tutte le persone che hanno avuto a che fare col carcere, insomma. Lì esiste la tachipirina e gli psicofarmaci più o meno come cura per tutto. Di default. I detenuti lo sapevano meglio di tutti, hanno scelto di alzare la testa. Il 7 marzo è stata la volta di Salerno, poi Frosinone, poi si è passati a Bologna, Modena, Roma e tantissime carceri, quasi 30 in tutta Italia, un fatto davvero epocale. Lo Stato da subito, già dal 7 marzo, ha risposto con delle torture nel carcere di Forni a Salerno, per poi passare ai pestaggi nel carcere di Poggio Reale a Napoli, le morti in quello di Modena, fino ad arrivare ad Ascoli Piceno con una vicenda tremenda che riguarda i detenuti deportati dal carcere di Modena dopo una rivolta dove sedata con il fuoco delle pallottole. E si è arrivati alle morti di Rieti, di cui nessuno parla assolutamente, c'è un silenzio totale. Noi abbiamo avuto la fortuna di conoscere persone che vivono nelle occupazioni come noi, che avevano parenti lì dentro, che hanno scelto di alzare la voce e raccontare quello che stava succedendo, insomma, nella nostra stessa regione. morti totalmente silenziate. Che cosa succede? Che un mese dopo, nonostante le stragi nelle carceri, le morti, 14 già, le torture, i pestaggi, i trasferimenti punitivi, che significa anche essere allontanati centinaia di chilometri dai propri familiari, con l'impossibilità magari di ricevere un pacco coi vestiti o il pacco con del cibo e via dicendo, cioè quello che, tutto quello oppure che significa, oppure di ricevere una visita dai propri cari, no? Assolutamente. Che succede? Che a un certo punto nel carcere di Santa Maria Capua Vetere avevano trasferito diversi detenuti. È sempre stato un carcere punitivo. Immaginate questo, che proprio in questi ultimi tempi, dopo 20 anni, stanno iniziando i lavori per fare la rete idrica del carcere, quindi portando l'acqua potabile dentro quel carcere. Ecco, possiamo prenderla da esempio questa faccenda qua, che la gente non può bere neanche l'acqua potabile e si ritrova a bere acqua sporca di merda, acqua fognaria. Se non comprandola, quindi. Se non comprandola, assolutamente. Tra l'altro con dei progetti beceri che hanno tirato su ultimamente, per esempio le detenute le hanno messe a coltivare dei pomodori nel campo del carcere, sai... Hanno interrotto tutte le attività a marzo 2020 e senza visite, senza attività, senza niente, la gente comunque passava le ore isolata, perché anche con la paura di ammalarsi col virus in giro. Di fatto, cioè, praticamente queste le facevano coltivare con l'acqua fognaria. Le detenute, che avevano pure paura di essere costrette poi a mangiare quei pomodori che coltivavano loro stesse come attività principale che il carcere le regalava per ammazzare il tempo dall'isolamento. Però per dire che quell'inizio di aprile avevano già trasferito dei detenuti da altre carceri, un carcere appunto Santa Maria Capua Vetere. Chiunque un po' si attenta al carcere sa che è un carcere punitivo, al pari di Viterbo, per dire, al pari del Mamma Gialla, cioè sono situazioni che magari qua in quartiere si conoscono pure. Ed erano stati trasferiti pure parecchi detenuti che durante le proteste di marzo erano riusciti ad evadere dal carcere di Foggia. Un vero smacco, insomma, è la parte più bella di una protesta in carcere, quella che l'evasione. La gente si riesce a guadagnare la libertà. Di fatto, come rappresaglia, molta gente era stata trasferita là. Che fa lo Stato? Organizza una vera e propria rappresaglia, utilizzando come pretesto una battitura che sarebbe una forma di protesta dove i detenuti sbattono sulle sbarre. Ed è un modo di visibilizzare il fatto all'esterno che esisti, qualcuno ti sente, e dentro comunque è un modo per far sentire anche la tua voce. Utilizzando questo pretesto qua, avvenuto tra l'altro il giorno precedente, dove era già tutto calmo, tutto tranquillo lì nel carcere, hanno organizzato praticamente una spedizione punitiva che chiamano perquisizione delle celle, ma di fatto sono entrati 300 agenti in assetto, immagino, e hanno praticamente pestato tutti i detenuti di uno specifico reparto. E abbiamo una testimonianza di una parente di uno di questi detenuti qua. Ci va di ascoltarla, perché racconta qualcosa che oggi sta venendo alla luce in maniera ipocrita, perché questa mattina ci siamo svegliati con la notizia che poco più di 50 agenti della penitenziaria erano stati sottoposti a delle misure preventive, quindi qualcuno si ritrova in carcere, qualcuno agli arresti domiciliari, qualcuno con obbligo di dimora, insomma solo 50 di una mattanza di 300 agenti. E tra l'altro immaginate che questo arriva mentre hanno archiviato i processi per le morti di Modena, e mentre non si parla assolutamente di quello che è successo per un mese nelle carceri di questo paese, tra pestaggi, torture che hanno riguardato tantissimi detenuti. Si è acceso un caso su Santa Maria Capua Vetere, avevano già annunciato un'inchiesta e fu eclatante, perché la penitenziaria fece la forma di protesta che spesso scelgono i detenuti, cioè prendere i tetti. scelsero durante le perquisizioni di prendere i tetti del carcere, mentre tra l'altro gli venivano sequestrati i cellulari dove c'erano le loro chat, dove si vantavano, si organizzavano per questo pestaggio. Io sono dell'idea che noi neanche dovremmo diffondere quelle chat, perché la stessa merda che loro fanno nei nostri confronti quando fanno le inchieste, che si inventano le cazzate varie, che magari da mezza frase che ci scambiamo noi costruiscono dei una castelli, una montatura assurda, come inquisitori assurdi siamo sempre abituati a vedere. Dove, io però direi una cosa, dove tra l'altro, cioè, solo per concludere, a noi, cioè, che facciamo i presidi fuori dalle carceri, ci dicono tanto che noi siamo la regia esterna alle proteste dei carcerati. Hanno fatto recentemente anche un'inchiesta ai danni di Compagni, l'hanno arrestati proprio l'anno scorso, dicendo è un arresto preventivo, ovvero potenzialmente voi potreste essere pericolosi perché siete voi che sobillate i detenuti, mentre è lo Stato che mette nelle condizioni di merda i le detenuti che, poi si che coscientemente scelgono di ribellarsi. Se guardate anche la cronaca, sono gli stessi giornali che pubblicano le chat di questi torturatori che si vantano di fatto di aver fatto una macelleria vera e propria lì dentro. E andate e ritorno pure, no? Perché prima le stavamo commentando alcune di queste, no? E comunque era veramente viene da piangere, ignobile ascoltare e leggere determinate cose. Siccome non serve un'inchiesta della procura, ma a noi ci basta la voce delle persone che hanno contatti con i detenuti, che raccontano cose abominevoli, questa stessa corrispondenza andate in onda poco più di un anno fa, quindi era una settimana dopo le torture dentro il carcere, su Radio Blackout. Adesso ce la riascoltiamo e poi concludiamo. Andiamo insieme a mandare un pochino di musica, così concludiamo il blocco di voce e tra pochissimo andiamo a mandare questa corrispondenza. Radio Pirata 38 351 09 13 390, eccoci qui. Siamo in diretta con Rita, moglie di un detenuto del carcere di Santa Maria Capua Vetere. Ciao Rita, benvenuta sulle libere frequenze di Blackout. Allora, appunto, il 5 aprile è circolata la notizia di una rivolta nel carcere campano di Santa Maria Capua Vetere. Dal tuo punto di vista, come hai vissuto la notizia e quali sono state le motivazioni dei detenuti? Cioè, tu come, appunto, compagna di un prigioniero di quel carcere, come hai vissuto la notizia della rivolta e poi quali notizie, quali informazioni ti sono arrivate rispetto alle rivendicazioni dei detenuti? Allora, come vissuta, ovviamente è stata una cosa traumatica e mi sono messa a paura come tutte le mogli dei detenuti, perché comunque non è una bella notizia da ricevere a casa, questa è la cosa. Certo, immaginiamo appunto la preoccupazione appunto per l'incolumità di tuo marito. E secondo te, appunto, rispetto ai colloqui, alle notizie. Allora la rimettiamo un attimo, sì, perché qua ci stanno. Quali sono state le telefono. Principali motivazioni per la rivolta? Sono state loro, si volevano soltanto tutelare la loro salute, perché comunque per tutti questi casi di coronavirus loro non vengono tutelati, sono ammassati nelle celle a 4 persone, questa è la cosa. Loro non hanno le distanze di sicurezza come noi. Certo, appunto, se questa protesta, come dicevi tu, è stata soprattutto un modo per tutelare i propri diritti, sì. Una forma di autodifesa, insomma, abbiamo saputo che le conseguenze sono state terrificanti. Puoi raccontarci appunto alcune delle testimonianze che hai raccolto? Le testimonianze che ho raccolto sono le registrazioni dei detenuti che abbiamo raccolto tutte insieme, perché praticamente sono i miei mariti, i parenti, un po' di tutti. E nelle testimonianze loro ci dicono, piangendo, che li hanno fatti male, male veramente. Appunto, ma sappiamo di denti saltati, sappiamo anche di come sì, hanno cercato poi di nascondere. Allora, praticamente hanno rasato barba e capelli a tutti i detenuti, li hanno denudati e li hanno massacrati, questa è la cosa. Ci sono persone che hanno costole rotte, trauma cranici, denti saltati, poi ci sta addirittura, scusate per il termine, urina sangue, se stiamo parlando di cose veramente molto gravi. Ma quindi tu confermi anche che li abbiano rasati prima di pestarli, sì, come forma di umiliazione? Addirittura c'è il marito di una mia amica che gliel'hanno tolta, la barba gliel'hanno tolta con l'accendino, gliel'hanno bruciata. Ecco, e poi hanno cercato di nascondere, per esempio, quando ci sono state delle videochiamate, facendo indossare coperture per il volto. Sì, facendo indossare le mascherine, ma infatti non ce ne sono state tante di videochiamate. Rendiamoci conto di quello che stiamo ascoltando. Invito gli amici e le amiche all'ascolto a rendersi conto di che cosa sta succedendo in Italia in questi giorni, in questo clima di... anomalia, e non può assolutamente essere normale che le carceri italiane diventino dei luoghi di tortura sistematica, perché stiamo parlando di persone prima deumanizzate, rasate e denudate e poi massacrate. Ecco, ma continuate a massacrare anche nei giorni a seguire voi. Certo, ma appunto mi fermerei ancora un attimo sui pestaggi, nel senso, è possibile capire come si siano svolti, nel senso in che aree del carcere si siano svolti, gli agenti coinvolti, certo, se erano del GOM o se erano in stanza al carcere, se sono venuti in gruppo o individualmente? Hai qualche dato a riguardo, perché sono importanti da diffondere? Allora, praticamente per spiegare tutto si dovrebbe iniziare dall'inizio, perché comunque la storia è abbastanza... Allora, praticamente le guardie vengono da fuori, le ha chiamate la direttrice, ha chiamato i rinforzi perché non è in grado di gestire la situazione critica del carcere. Certo, quindi sono arrivati i rinforzi, agenti esterni al carcere. E poi sono andati nel reparto Nilo e hanno massacrato l'intero reparto. La maggior parte però sono il secondo e il terzo piano, che veramente sono fatti veramente molto male, come dicono, però invece noi sappiamo che sono tutti piani, perché poi parlando con la direttrice lei ci ha confermato i pestaggi. Ah, la direttrice ha confermato i pestaggi, quindi? Sì, perché quando noi siamo andati a fare la protesta pacifica fuori al carcere, io e altre due persone abbiamo avuto un incontro con la vice direttrice del carcere di Santa Maria Capua Vetere e lei ha detto che veramente sono stati pestati. Quindi voi comunque avete una conferma anche della direttrice che all'interno... Sì, davanti a un pubblico ufficiale, davanti, esatto, a un carabinieri, il comandante... E allora bene, anzi molto male, però tanto questo è uno stralcio di una corrispondenza andata in onda su Blackout. Chi volesse può trovarla al titolo La macelleria di Santa Maria Capua Vetere, su qualsiasi motore di ricerca. E è la voce di Rita, parente di un detenuto di Santa Maria Capua Vetere. Di fatto ci racconta questo, che sono stati pestaggi comandati dalla direzione con totale coscienza, tra l'altro, di tutto l'apparato del DAP, perché per chiamare le sue armate da fuori a operare in questa maniera all'interno di un carcere significa che questa è una roba organizzata. L'inchiesta purtroppo dimostra proprio questo, che c'era una coscienza collettiva. E tra l'altro dentro l'inchiesta sono finiti anche questi operatori dell'ASL, che di fatto hanno collaborato con l'insabbiare il tutto. Perché che cosa accadde dopo quella mattanza? Accadde che proprio perché c'erano i videocolloqui su Skype, le persone registravano i videocolloqui e di fatto la direzione obbligava i detenuti a indossare la mascherina per coprire gli ematomi. Ma qual è una persona cara a te che non si accorge che te c'hai la faccia sconquassata? Chiunque. Quindi sono videocolloqui che sono stati registrati, dove si vedono persone totalmente devastate dai pestaggi, con dei segni anche tantissimo tempo dopo, quindi a dimostrazione che non ci sono andati per niente piano. Di fatto quello che è accaduto oggi in maniera molto spettacolare, abbiamo visto anche le dichiarazioni di tutta la politica, anche la nuova ministra della giustizia si è detta dalla parte della polizia penitenziaria, ma tutti, anche al tempo... Ma no, alcune... ma sa perché? Perché poi sono le solite mele marce, no? Assolutamente, perché già al tempo della prima perquisizione, con questi primo giro di inquisiti, già la politica aveva detto siamo dalla parte di questa gente qua, ma l'abbiamo visto anche nei casi di tortura in altre carceri, come senza neanche troppo prendercela con Salvini, perché in realtà è un coro unanime quello di assolutamente dire che questa gente sotto personale, sotto armata, in condizioni di lavoro difficilissime, di fatto è giustificata a fare tutto. Immaginiamo con 200 agenti che arrivano da fuori a dare manforte e a fare una giornata di torture dentro un carcere. Ma stai citando quello che abbiamo letto? Sì, sì, sì, sì. Di giornale che possiamo trovare su quella ovunque, testata. Ovunque. E ovunque, ormai nella seconda parte della giornata di oggi, perché la giornata è iniziata molto presto con questa notizia roboante, ma alle 11 c'è stata la conferenza stampa della Procura di Caserta, che di fatto ha diffuso tutti gli atti durante e quindi tutti i giornali in seconda battuta riportano intercettazioni e tutte le indagini che hanno riguardato questi 50 e passa misere persone. Io, cioè, davvero non le considero neanche delle persone degne di respirare, che perché hanno partecipato a un pestaggio di persone disarmate in una condizione di subordinazione e isolamento estremo. Ma di fatto se immaginate che questi 50 bastano per seppellire la verità su tutto quello che è successo nelle carceri, non è così. C'è un'ipocrisia immensa. D'altra parte, però, si sono aperti processi per centinaia di detenuti accusati per le rivolte in tutte le carceri, e alcuni sono accusati pesantemente anche di sequestro di persona, perché basta chiudere in cancello. Certo. Significa sequestro di persona, devastazione e saccheggio, un reato che purtroppo prima si parlava di Genova, qualcuno lo conosce molto bene perché si parla di pene pesantissime. E qua a Roma il 30, quindi mercoledì dopodomani, si apre il processo per 46 detenuti di Re Bibbia accusati tra le cose anche di devastazione e saccheggio. E proprio quel giorno, è stata indetta un'iniziativa? Sì, alle 6:30 del pomeriggio sul pratone del femminile, perché è più accogliente, perché comunque c'è pari sofferenza, spazio, diciamo. C'è da dire che quando si è andati durante questi 2 anni in maniera assidua, si è sempre cercato in modo di stare sia da una parte che dall'altra. Comunque Re Bibbia è un carcere gigantesco, immaginate che cioè, è come un quartiere, cioè un quartiere, cioè, dentro c'ha dei luoghi di profitto, di lavoro, c'ha dei luoghi di isolamento, i regimi speciali, c'ha la differenziazione in tutte le sue forme, c'ha l'aula bunker, cioè, c'è di tutto là dentro, è una città davvero. E si starà al Pratone del Femminile a presentare il fumetto che Zero Calcare ha pubblicato proprio in memoria delle persone morte durante le proteste in carcere nel 2020 e che racconta molto bene Re Bibbia, quella che è stata la rivolta a Re Bibbia, e lo presentiamo insieme a lui. Verrà pure Zero Calcare sul Prato e sarà un modo per stare vicini alle detenute. Allora ricordiamo quindi mercoledì prossimo 30 giugno 2021 dalle ore 18:30 al Pratone di fronte alla sessione femminile di Re Bibbia, iniziativa con presentazione alla quale presenzierà anche Zero Calcare. Invitiamo tutte e tutte a poter partecipare. Torniamo aggiungendo una piccola cosa, solo un piccolo aspetto: dentro il carcere di Santa Maria Capua Vetere è in corso anche uno sciopero della fame. C'è Natascia che sta cercando, dopo essere stata arrestata e aver già fatto penso bei giri per le carceri, perché ha fatto L'Aquila, Re Bibbia, Piacenza, Vigevano, Santa Maria Capua Vetere, insomma in poco più di 2 anni, sta lottando per ottenere il trasferimento da Santa Maria Capua Vetere, è in sciopero della fame. E quanti giorni più o meno? Dal 16, quindi sono già un bel po' di giorni, sono più di 10 giorni, 12 giorni. E per domenica 4 è previsto un presidio proprio a Santa Maria Capua Vetere, quindi poi magari lunedì prossimo possiamo, vi faremo un resoconto. Sì. Perfetto, dai, allora andiamo un attimino in voce, in musica, scusate, per poi tornare in voce e fare gli ultimi saluti, perché ci accingiamo alla fine della trasmissione di quest'oggi, lunedì 28 giugno 2021, Radio Virata 38, dai DJ. Allora, eccoci qua, ritorniamo un attimino in voce per fare i saluti finali, mentre una traccia si blocca, non si sa nemmeno il motivo per cui si sia bloccata. E allora ringraziamo tutte e tutti coloro i quali e le quali sono stati qui all'ascolto, ma sappiamo che tanto rimanderemo i podcast, per cui potrete riascoltarci qualora abbiate questa volontà. E vi invitiamo logicamente a contattarci al 351-09-13390 e vi diamo appuntamento per cui al prossimo lunedì, sempre stessa ora, stessa spiaggia, stesso mare, da Laurentino 38, Sesto Ponte, Radio Pirata 38. Queste le nostre frequenze, questa è la nostra voce, questa è la nostra attitudine. Attendiamo per la prossima volta che siate qui numerose e numerose a parlarci anche di qualche tema, a mandarci un pochino di richieste musicali, che quest'oggi abbiamo accontentato parzialmente rispetto allo scorso lunedì. E niente, grazie a tutte e tutti per quest'oggi è veramente tutto. Vi andiamo a augurare una buona serata. Ci chiedono forse una dedica o una cosa alla fine. Proviamo ad accontentarla. Vediamo anche se manca un giusto minuto. Dedicata a tutte le persone private della loro libertà, un saluto solidale e ribelle, un abbraccio a voi della radio. E si firmano grazie Alberto. Dai, proviamo a farvi un ultimo saluto musicale e ci risentiamo lunedì prossimo. Buona serata a tutti e a tutte.